Comincio io perché linguisticamente, appunto, i due relatori di oggi pomeriggio, in questa relazione che è l'unica a due teste, appartengono al gruppo linguistico italiano, per quanto, appunto, il professor Turchini, avendo studiato col professor Reinhardt, è in qualche modo una. Non so, ecco, un maturo frutto, diciamo, un maturo frutto comune di entrambi. E non è un caso poi che dopo anni in fondo ci si intrecci anche in questo modo, insomma, ecco, con la crescita di ex giovani, diciamo così, posso dire questo, insomma, ecco. Che ormai appunto fanno una loro strada da tempo come Turchini. E questo lavoro che la dottoressa Nuvola e il professor Turchini presentano oggi è, diciamo, l'esempio più concreto e tipico di quello che volevo dire il primo giorno, cioè che questo convegno non è un convegno occasionale, ecco, ma è una tappa di una lunga storia interna dell'istituto storico, di un lavoro anche di equipe, perché intorno a questo progetto da loro condotto avanti, poi hanno lavorato anche altre persone, alcune delle quali vedo qui presenti, e si conclude anche poi dopo, per questo avevamo messo oggi pomeriggio solo una relazione, con una sperimentazione dal vivo, diciamo così, come si può dire? Di una dimostrazione dal vivo di questo progetto che ormai è alla vigilia proprio del suo compimento definitivo, di elaborazione su CD-ROM di tutti i dati relativi alle visite pastorali della diocesi di Trento. È stato un lavoro che ha significato un grosso impegno di progettualità enorme da parte appunto del professor Turchini, della dottoressa Nubra, che ha coinvolto molte persone e che noi speravamo e speriamo possa essere utile anche come valore esemplare per altre diocesi italiane. Io personalmente, i miei collaboratori sanno che sono poco incline alle elaborazioni quantitative, sono uno zuccone nell'uso del computer che devo sempre farmi dire dalla dottoressa Nubolo quale bottone poi devo spingere se vado al di là della scrittura normale, perché io mi reggo soltanto nell'utilizzazione del computer come macchina da scrivere e non vado più là. È comodo perché fa le note, cioè queste cose qui mi piacciono, ecco, ma per il resto. Ecco, però capisco, pur essendo così zuccone e ignorante, capisco che in realtà per la prima volta nella storia della storiografia noi siamo in grado di manipolare migliaia, decine di migliaia di dati, in questo caso delle visite pastorali trentine, incrociando le domande e ottenendo appunto veramente dei risultati sorprendenti. Ecco, questo volevo solo dire per accentuare per l'appetito per le cose che veremo sentendo oggi pomeriggio. Quindi la parola ai relatori. In questo caso la parola la prendo io, ma non perché è un atto di imperio, quanto per una decisione comune. Quindi parlerò a nome di entrambi. Questa è la prima premessa. La seconda premessa è una considerazione. L'intervento sarà molto, abbastanza, direi, molto schematico. E andrà per punti, partendo ovviamente dal Concilio di Trento. Primo, l'obbligo di visita secondo il Concilio. Il Concilio di Trento si occupa a più riprese del diritto, dovere di visita degli ordinari diocesani, indicando puntualmente tutti gli enti soggetti e le finalità da perseguire. I padri conciliari si preoccupano di sottolineare la figura e il comportamento del vescovo in visita, impegnato nella predicazione, soprattutto, strumento pastorale per eccellenza di insegnamento, esposizione della dottrina pura e ortodossa, correzione, incitamento alla fede e a una condotta cristiana. La visita è correzione. Spesso i decreti usano il binomio dei termini visitatio et aut correctio, anche in relazione ai mores. E la visita è uno strumento privilegiato di conoscenza preliminare all'esercizio del governo ecclesiastico, individuato nelle sue caratteristiche di stabilire sottomissione e obbedienza attraverso comando, regolazione, punizione, esecuzione. Punto 2. Pastoralità e governo. Nel periodo successivo al Tridentino, sino alla fine del XVI secolo, si può dire che l'attività di visita, condotta personalmente dal vescovo attraverso i suoi delegati, conosce un grande sviluppo in tutti i territori rimasti fedeli alla Chiesa romana. Si tratta di uno dei mezzi più utilizzati perché rispondeva ad alcune esigenze di fondo. Alla necessità di conoscere lo stato delle diocesi, premessa indispensabile per ogni progetto di riforma, si affianca il tentativo di dare rinnovata visibilità ad un potere vescovile normalmente latitante o completamente assente anche per decenni in passato. L'immagine che il vescovo dà di sé e l'autocoscienza del suo ruolo, fatta anche attraverso tutta una serie di opere e libri, tende ad essere più improntata al modello del principe che a quello del sacerdote pastore, così come prevalgono gli aspetti di verifica e controllo sul clero e sui fedeli, sugli edifici ecclesiastici, sull'amministrazione di benefici ed enti, a scapito dei doveri di cura d'anime proclamati come propri, come la predicazione e l'amministrazione dei sacramenti. Punto 3. Un'esemplificazione sul modo di visita di Carlo Borromeo, ma solo per cenno. Un ordo visitandi, rintracciato fortunatamente a Milano, permette di conoscere le modalità previste per la visita. Ed è ovvio che il largo influsso esercitato da Carlo Borromeo a noi interessa, perché i suoi concili provinciali ebbero una straordinaria diffusione a stampa. Il primo, 1565, ebbe oltre 6.000 copie diffuse in tutta Italia ed Europa, mentre i materiali contenuti negli Acta Ecclesiae Mediolanensis, 1584, un corpus definito di leggi e di regolamenti, di direttive e di formule, verranno assunti quale vademecum anche per l'impostazione, la preparazione, l'organizzazione, l'espletamento della visita. Punto 4. La scrittura. L'uso e l'utilizzo della scrittura, il principio dell'uso della scrittura per tracciare il quadro della situazione si afferma in modo definitivo, organico, proprio questi anni. La scrittura da presentare ad un'amministrazione diocesana, la scrittura costituisce l'alimento di un'amministrazione diocesana che la utilizza. In primo luogo istruzioni e questionari. La visita è agevolata dalla produzione di manuali, da istruzioni e questionari destinati alla visita pastorale in modo esclusivo. A partire dalla seconda metà del XVI secolo e poi in seguito i trattati sono numerosi e dalle caratteristiche più disparate, da quelli che intendono aiutare il vescovo a fare bene il suo compito a quelli che raccolgono la normativa e la prassi, andiamo avanti nel tempo come i classici Barbosa che avanti, a quelli pur animati da un afflato spirituale che scendono nei dettagli di una casistica quanto mai complessa e analitica come un famoso trattato del Crispino, o a quelli che inseriscono la visita pastorale nel contesto giuridico e canonico. Peraltro, con la pubblicazione del Pontificale Romanum del 1595 si pone fine a una pluralità, o si tende a porre fine a una pluralità di modelli locali, proponendo di conformarsi a un unico nuovo testo, l'Ordo ad Visitandas Parochias, che gioca un ruolo importante nell'impostazione unitaria della visita nell'età moderna. In esso si indicano modalità di accoglienza, i motivi della visita enunciati durante la predicazione solenne, con l'invito alla conversione e alla penitenza, la procedura di visita dell'edificio, degli edifici religiosi e simili. Peraltro, a disposizione per l'area italiana ci sono testi importanti, come il memoriale utilizzato dai visitatori delegati del vescovo Giberti, che si propone alla riflessione di un episcopato attento, dopo il Concilio Tridentino, sia al nord che al sud. Il memoriale del Giberti andrà nelle mani di Ormaneto, di Morone, di Borromeo, di Valier, e nel sud di vescovi come Colonna a Salerno. Borromeo peraltro fa stendere questionari e trattati di visita che circolano fra i suoi collaboratori, anche se restano allo stadio di manoscritti. E non è stata valutata appieno la diffusione dopo il concilio, a partire dalla sede romana, di un testo che ha avuto larga circolazione, intitolato Modus in visitatione servandus o anche Modus visitandi, né l'effetto, non è stato valutato neanche l'effetto, sulla impostazione delle visite, e non solo italiane, delle direttive standardizzate per la compilazione delle relaciones ad limine, quando queste vengono istituite. Per l'area francese i formulari di visita stampati compaiono abbastanza, diciamo, dentro il secolo XVI, a partire da quello famoso del cardinale di Joyeuse di Tolosa, 1596. I tempi di introduzione di uno schema da seguire per la visita sono abbastanza variabili, non sempre si fissano in uno stampato che facilita l'ordine della scrittura o addirittura prevede la compilazione diretta. Dominique Julia nota una discreta produzione nel corso della prima metà del XVII secolo, con modelli che si ripetono poi fino alla fine del XVIII secolo. Per l'area dell'impero non è casuale che i questionari identificati ed esaminati da Lang appartengano principalmente a diocesi della Germania meridionale e alcuni di essi siano stati utilizzati contemporaneamente in varie sedi. Ad esempio quello di Mainz, adottato a Paderborn a Strasburgo, quello di Köln, 1550, a Münster, quello di Münster, 1612, a Paderborn, con una serie di rinvii, quello di Salisburgo, soprattutto quello del 1569, a loro volta applicato in tutte le diocesi bavaresi. La maggior parte delle istruzioni per i visitatori del XVII secolo, poi, mostra la tendenza alla complessità e alla maggiore ampiezza possibile, data dall'alto numero di domande previste. In qualche caso siamo davanti a interi trattati di teologia in centinaia e centinaia e centinaia di domande. Oltre i questionari e le istruzioni ci sono poi gli inventari, in questo ambito di utilizzo della scrittura. Ai visitati toccava fornire una ricchissima serie di dati, preparare cioè distintamente indici di tipo giuridico, economico, personale e quant'altro, contenenti situazioni di fatto, di cose e di persone. Rientrano in questa raccolta elenchi, inventari di cappelle, legati pii, benefici, persone ecclesiastiche, chiese, scuole, confraternite, luoghi pii, al pari di malviventi, concubini, medici, maestri di scuola e altri. Si chiedono inoltre inventari di reliquie, a Milano ad esempio, del personale connesso ai servizi liturgici, dei beni immobili, di particolari categorie di persone da sorvegliare. Esiste un'attenzione tutta nuova per la conservazione degli atti in archivio, che diventa sempre più soddisfacente. Il buon funzionamento dell'attività di curia, sotto la supervisione del vicario, dipende anche dall'organizzazione, dall'ordinamento, ripartizione dell'archivio, che deve permettere una buona collocazione degli atti, in primo luogo di quelli di visita, che sempre più abbondanti vi confluiscono e ancora prima vi si producono. E come dimenticare i modelli formalizzati adottati dalla burocrazia e l'utilizzazione crescente della stampa mano a mano che si procede nell'età moderna. I materiali si moltiplicano e accrescono dal punto di vista quantitativo in connessione con la progressiva centralizzazione del potere e dal punto di vista qualitativo in rapporto alla perizia e al livello professionale dell'amministrazione. Le visite, da questo punto di vista, possono costituire un elemento talora discriminante per misurare la modernizzazione in atto nella Chiesa, parallelamente a quella di altri uffici, ad esempio statali. Punto quinto. 5. Strutture di curia vescovile. Le congregaciones. La visita permette di definire ulteriormente le strutture interne della Chiesa locale, siano esse permanenti, siano esse temporanee. Alcune sono introdotte ex novo, rispondendo alla necessità di una divisione del lavoro e delle competenze. La curia è il luogo che costituisce, dovrebbe dire quasi sostituisce, il centro della diocesi, nella sede della città vescovile, sotto la direzione del vescovo e dei suoi delegati. Alcune specifiche congregazioni. Congregazione della disciplina. Carlo Borromeo ne prevede formalmente la costituzione come strumento permanente. La congregazione si riunisce settimanalmente, tratti i problemi di governo della diocesi a partire dalla visita, ovvero dai risultati delle ispezioni, investigazioni, informative raccolte. Una congregazione simile a quella operante a Milano, detta Regime Ecclesiastique, sembrerebbe ritrovarsi a Bordeaux con il cardinale François de Sourdin. Siamo all'inizio del Seicento. Poco si sa del funzionamento di questa congregazione, che forse potrebbe essere avvicinata al Gastric Errat episcopale, De Spiritualis o della visita. Quando si passa nei dettagli, si delinea anche l'operato di congregazioni costituite ad hoc durante la visita. Una breve ricerca ha permesso di accettare i compiti a Trento, ad esempio nella visita del cardinale Madruzzo nel 1579-1581, la congregazio opera da un lato per l'esame e la risoluzione delle questioni emerse nel corso della visita e segnalate dai visitatori, inoltre la congregazione elabora i decreti visitali, alcuni documenti, norme generali su problemi di particolare rilevanza inviati poi anche a tutta la diocesi come ordines et decreti. La congregazione spirituale prende provvedimenti opportuni ed è strutturalmente inquadrata, seppure momentaneamente, nell'ordinamento diocesano. Riscontri di questa congregazio spirituale sono rintracciabili non solo nella trattatistica, ne parlano autori come Rinuccini a metà del Seicento, Crispino, ma anche nella pratica della diocesi di Roma, dove essa compare composta da un buon numero di cardinali, prelati e altri soggetti che si riuniscono e dividono le chiese e i luoghi da visitare, ne fanno una relazione accuratissima, particolarmente delle cose bisognose di provvedimento, e poi i decreti da farsi, e la relazione si legge nella congregazione. C'è anche un'altra congregazione delle cose temporali che però compare, almeno al momento, solo almeno dalle ricerche fatte, solo nell'area milanese, ma è solo questione di scarsa attenzione da parte dei ricercatori. Punto numero 6. Organizzazione vicariale. Nel contesto della congregazione della visita si valorizza l'apporto dei vicari foranei, attraverso i quali si tenta il superamento dell'organizzazione diocesana precedente. È il riconoscimento di una realtà di fatto, di una struttura mutuata dal Medioevo, trasformata e adattata a nuovi fini e sotto la direzione del vescovo. Il vicario assume compiti giurisdizionali di rappresentanza, amministrativi, polizieschi, di controllo sul territorio, per contenerne la spinta o le pulsioni centrifughe di troppo marcata autonomia. È interessato in primo luogo alla vita del clero, al comportamento dei laici, dal punto di vista della vita religiosa, all'amministrazione delle fondazioni, pia loca e simili. Inoltre deve rendere conto ai superiori gerarchici, al vicario generale o al vescovo. Rapporto, direttive e quant'altro avviene sempre per iscritto. Il vicario entra a far parte pienamente del corpo degli ufficiali periferici, relazionato ad altri ufficiali diventa un elemento di una complessiva macchina burocratica in via di costruzione e di affermazione, chiamata a operare sul territorio come strumento e tramite dell'autorità vescovile, con compiti di coordinamento degli ambiti di pertinenza, nonché di addestramento professionale, con l'organizzazione dei casi di coscienza. Naturalmente variano i tempi e variano i modi. E questo comunque il modello milanese che fa scuola. Ma la valorizzazione di un ufficiale intermedio come il vicario foraneo o il decano porta anche a uno svuotamento della visita. Infatti il controllo del clero passa attraverso altri strumenti, le conferenze del clero di vicariato, i rapporti dei vicari, degli stessi arcipreti e dei decani, e poi attraverso altri strumenti che rendono l'urgenza della visita meno pressante. Punto 7. Il vescovo giudice nella visitatio sinodalis. Il vescovo Giberti, costituito il tribunale, il cosiddetto tribunale, esaminava sotto giuramento il parroco e i sacerdoti residenti in parrocchia e laici qualificati, quindi emetteva il suo giudizio. Il vescovo è giudice in visita, secondo un modello consolidato nel tempo, tradito dall'alto medioevo e ribadito non solo dalla canonistica, ma anche dalla legislazione conciliare, penso ad esempio al Concilio di Basilea, e dalla trattatistica sulla visita. Le matrici lontane di tale posizione vanno ricercate nel IX-X secolo, in un preciso ambito geografico, nei paesi renani, dove esistevano assemblee giudiziarie da tenersi durante la visita pastorale, e di qui il nome di visitatio sinodalis, presiedute dal vescovo. Per assicurarne il funzionamento, i vescovi si erano conformati a un modello dedotto dall'amministrazione franca. Nel Concilio Tridentino si riprende questa funzione, che però muta di segno, prevedendo che le cause matrimoniali e criminali non saranno lasciate al giudizio del decano, dell'arcidiacono, di altri di grado inferiore, anche se sono in visita canonica, ma saranno riservate soltanto all'esame e alla giurisdizione del vescovo. Si sottolinea che il potere giudiziario è tutto nelle mani del vescovo, che può delegarlo agli ufficiali competenti negli organismi curiali. Non vi è più necessità di andare in visita, in giro, per amministrare la giustizia, nel momento in cui la maggiore efficienza, insieme alla esclusiva assegnazione di competenze dei tribunali ecclesiastici diocesani, permette la ordinarietà dell'atto giudiziario. Punto 8. Chierici e laici nella visitatio. Ma i chierici vanno interrogati perché compongono anch'essi la comunità cristiana, oppure perché così vuole una tradizione di chiesa, di cui ormai nel XVI secolo si sono perse, restano scarse tracce? In effetti i laici sono in una certa misura associati all'azione del personale governo della società ecclesiastica, quando in ciascuna parrocchia vengono scelti fra i più anziani, i notabili, degni come testimoni incaricati in occasione della visita pastorale di rivelare al visitatore abusi loro noti, abusi nel senso fra virgolette. Tuttavia anche in questa partecipazione attiva alla vita della Chiesa, anche in questo momento di valorizzazione, i laici giocano un ruolo di informatori, solo un ruolo di informatori, sono semplicemente ascoltati come testes, non giudicano ovviamente, essendo incapace di compiere nella società spirituale atti di autorità. La valorizzazione, sia pur limitata dei laici, verrà trascurata per favorire una linea che si può definire senz'altro più clericale e anche più autoritaria. Dalla tradizione della Chiesa altomedievale e proto-rinascimentale vengono però tre modalità di raccolta delle informazioni riplasmate, modificate anche profondamente, connesse con questa pratica di visitatio sinodalis, attraverso i testi sinodali. I testi o testimoni sinodali sono l'occhio e l'orecchio del vescovo a livello parrocchiale, indipendenti dai vicari forani o dai decani, anche se possono talora coincidere. In una realtà, ad esempio come quella milanese di Carlo Borromeo, vengono ampiamente valorizzate per il controllo del comportamento del clero e dei laici. I testes diventano scrutatori segreti che guardano alla diocesi nel suo complesso e non solo alle parrocchie o le singole parrocchie. Teorizzatore ne è il Crispino, esecutore ne è il cardinale Orsini, che poi diventerà Papa Benedetto XIII. Oltre ai testi sinodali ci sono i laici qualificati. Anche dopo il Concilio Tridentino resta l'abitudine di interrogare i parrocchiani, testi qualificati, secondo l'uso, per accertare attraverso una serie di informazioni e di notizie la realtà spirituale, locale, anche economica, per vagliare l'onesta clericorum e così via. Ma un'inquisizione siffatta rientra in un momento del tutto eccezionale, limitato a casi specifici e caratterizzato spesso da motivi inquisitoriali. Si afferma inoltre la pratica obbligata della confessione, che è una inquisizione individualizzata. Ancora un altro effetto sono i gravamina, e qui non spreco molte parole, per indicare appunto documenti materiali portati di singoli, di comunità, di enti portati all'attenzione del visitatore in primo luogo e poi delle curie. 9. un abbozzo, a questo punto, un abbozzo di periodizzazione. Se si guarda allo sviluppo temporale, si possono individuare a grandi linee alcune fasi o tappe successive, talora più o meno brevi o concentrate, talora più diluite e distese, risultano pur sempre presenti e sono così sintetizzabili a grandi linee. A. Affermazione e rafforzamento, quasi nuova fondazione del potere episcopale, soprattutto sul clero, a partire dalla visita. Prodi parlava di riforma episcopale. B. Conseguente e parallela riorganizzazione della vita ecclesiastica sul territorio col concorso, anche conflittuale, delle comunità e dei ceti. Essa offre stabilità alla struttura sociale della Chiesa con una legislazione centrale eretta per quanto è possibile a sistema. C. Occasione di innalzamento della qualità del clero e di relativo indirizzo per un approfondimento confessionale della vita religiosa popolare. Una cristianizzazione fondata anche sulle missioni e il concorso dei regolari. In sostanza si può sottoscrivere il giudizio espresso da Zeiden, un po' di anni fa, che nel XVI e XVII secolo, così come in Germania, anche in Europa, il fenomeno della visita pastorale non solo è così forte dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo ed è estremamente intensificato. Se dalla metà alla fine del XVI secolo o agli inizi del secolo seguente si mette a punto la conoscenza della situazione, l'esecuzione del tridentino anche in funzione controversistica, con l'approfondimento degli strumenti di verifica e di controllo in un secondo momento, fino al chiudere del XVII secolo si interviene su un funzionamento della macchina curiale sia a livello di organismi superiori che intermedi e di controllo, attraverso una serie di atti richiesti sul clero, sulla Chiesa, sui fedeli, con modalità che portano a una burocratizzazione fatta di ordinarietà e di ripetitività. L'efficienza della macchina tocca la creazione, fra virgolette, e la selezione del personale, pretende risposte di esecutività dei mandati, nonché la diffusione di testi scritti come strumenti dati dai catechismi, ai messali, formulari, ai libri. Cambia la Chiesa, ma cambia anche il mondo. 10. Punto decimo. Le visite evangeliche. La visita pastorale come metodo, strumento centrale del disciplinamento sociale, è comune alle confessioni. Anche nelle zone passate alla riforma, l'istituto della visita è al centro della riorganizzazione delle chiese. Per quanto riguarda una periodizzazione, l'istituto della visita protestante segue un percorso non molto dissimile da quello cattolico. Un primo periodo, subito dopo la frattura con Roma, è dedicato alla conoscenza delle condizioni religiose e morali del clero e della popolazione. Prevalgono le inchieste per verificare le conoscenze della dottrina e vengono sottolineati, spesso con stupore, l'ignoranza riguardo ai semplici fondamenti della fede e la misconoscenza anche delle preghiere più comuni come Padre Nostro. Contemporaneamente si provvede a dare una prima strutturazione alle chiese secondo i principi luterani in funzione antipapista, con l'abolizione della messa, del culto dei santi, della Madonna, delle superstizioni più macroscopiche. Dopo la pace di Augusta, la stabilizzazione delle chiese territoriali passa attraverso Kirchenordnungen, visite generali speciali, che concorrono al consolidamento della riforma, al controllo dell'ortodossia, al rafforzamento della identità confessionale. La fine della guerra dei trent'anni, con la fine delle guerre di religione, vede il prevalere in un contesto ormai stabile le visite di routine, con l'accentuazione di aspetti di controllo standardizzati e burocratizzati. Il modello delle visite, di queste visite si baserà largamente sulla visita pastorale alla Sassonia, indetta nel 1525 dal principe elettore Giovanni su sollecitazione dello stesso Lutero, interrotta nel 1526 per riprendere negli anni 1527 e 1529. Della commissione di visita facevano parte Lutero, Schurz, Melantone. A quest'ultimo si deve la stesura dell'Unterricht der Visitatoren, dato alle stampe con approvazione e prefazione di Lutero nel 1528. L'esperienza di visitatore, la considerazione dell'inettitudine dei pastori e dell'ignoranza della popolazione che vive come il buon bestiame e i porci ragionevoli, convincerà Lutero della necessità di indirizzare gli sforzi alla catechizzazione di base. Del 1529 saranno infatti pubblicati il piccolo catechismo, il Deutsch Catechismus, poi Der Grosse Catechismus e l'Enchiridion, il piccolo catechismo per pastori e predicatori indotti. Le chiese evangeliche si richiameranno Lutero e la tradizione di visita della Chiesa primitiva. Riguardo alle modalità organizzative, le visite nei territori passati alla Riforma sono promosse dal principe e sono inseparabili da Kirchenordnungen, la legislazione ecclesiastica emanata dal potere politico. Spesso questa prevede la composizione e i compiti delle commissioni di visita. Le commissioni visitali sono normalmente emanazione del Consiglio ecclesiastico, Kirchenrat o Geistlichenrat, istituito dal principe e formato da teologi, funzionari del principe, nobili o borghesi. Se le visite generali costituiscono momenti eccezionali nella conduzione della Chiesa, ben più frequenti sono le visite speciali dedicate al controllo ordinario di pastori e popolazione, oppure istituite per la verifica di aspetti particolari di cui vengono incaricati sovrintendenti, vale a dire funzionari del principe, con poteri ampi sia religiosi che politici. Si potrebbero fare vari esempi. Punto 11. Una comparazione, un abbozzo di comparazione fra visita del Sassone, visita di Verona e visita di Roma nel 1529. Le visite di Verona e di Roma sono più o meno coeve alla visita sassone. Le prime si collocano fra 1525 e 1529, la seconda nel 1529 con un seguito nel 1535. Condotte dai vicari, hanno un'impostazione abbastanza simile al di là dell'ampiezza del territorio visitato. Per la Sassonia, Lutero prevede all'inizio dell'Interister Visitatorum il richiamo alla tradizione biblica della visita, quindi agli antichi padri e ai santi vescovi. Traccia il quadro ideale del visitatore, rileggendone però i compiti in vista dell'insegnamento e della predicazione. E il vescovo è, in senso stretto, Aufseher, sovrintendente, ovvero visitatore. In realtà, dice, non è stato così. Gli arcivescovi sono diventati principi, i vescovi nobili e così via, trasformandosi in signori o ufficiali attenti solo al denaro. Geldsachen und niemand besuchen. La visita era decaduta come compito sacro ed era venuto meno der Heilige Send oder Synodus. In questo bilancio si avverte l'attenzione all'antica tradizione e alla prassi della visitatio sinodalis sino alla sua evoluzione e trasformazione, e cioè una fiscalizzazione crescente con lamentele gravamina sotto gli occhi di tutti che avevano portato un ampio discredito delle visite e del Sendgericht. In un appunto Lutero aveva preliminarmente classificato la materia in vari ordini. Lo schema dell'Unterricht non differisce molto dall'ipotesi originaria, dedica molto spazio a questioni dottrinali e alla loro spiegazione, alla predicazione, all'annuncio, all'insegnamento. Occorre essere maestri di fede, religiose e di etiche, e se si guarda una lista di argomenti da insegnare si trovano insieme quelli più propriamente religiosi con quelli di una morale sociale di interesse civico. Per Lutero, passiamo a Verona, per Lutero la predicazione è punto irrinunciabile ed essenziale dell'impegno del pastore, essendo la parola divina al primo posto. Anche Giberti, sia pure qualche tempo più tardi, trova opportuno valersi di uno strumento come la predicazione e non solo in visita, direttamente o attraverso Tullio Crispoldi. Le sue istruzioni per i confessori intendono diffonderne la pratica fra il clero con suggerimenti e proposte ad un livello molto semplice. E altresì significativa un'analoga proposta nel testo dei suoi avvertimenti. Ma le visite ordinate da Giberti individuano semplicemente il rettore, ne verificano la qualità, esaminano lo stato materiale della Chiesa e dei luoghi sacri, prevedono una ricognizione dei beni mobili della Chiesa, inventari di paramenti e arredi che occupano un lungo spazio nella loro elencazione, infine si odono gravamina e si esercita la giustizia in questioni matrimoniali e criminali. Così anche a Roma. Ritrovamento nuovo di queste visite. Nel 1529 e nel 1535 viene complessivamente visitato un centinaio di chiese dell'Urbe. Il contesto oscilla fra le conseguenze del sacco di Roma e i tentativi di riforma della Chiesa a partire dalla sede romana, la Babilonia luterana. I materiali del 1529 sono gli ordini dati in seguito alla visita. Non sono la visita vera e propria, ma solo la sua terminazione. Si assegna un tempo stabilito per provvedere agli arredi necessari per la celebrazione della messa, si cura la tutela del Santissimo Sacramento, nonché del fonte battesimale, si prevede l'utilizzazione delle campane per chiamare a raccolta i fedeli per la messa, si guarda alla stabilità e al decoro dell'edificio ecclesiastico. Ancora prima si invoca la residenza del clero, mentre si presta attenzione all'inventario dei beni immobili. Altra visita parziale del 1535 è con tutta probabilità da porsi in relazione con la bolla del 23 agosto di quell'anno con cui si intendeva riformare la città di Roma e la curia romana, in vista dell'imminente concilio. Gli esiti ravvisabili nell'editto dell'11 febbraio 1536 sono deboli, poiché ci si limita, come ricorda Poyedin, con l'apporto, che non era presente però questa visita, con l'apporto di componenti conservatrici della curia a regolare la vita e il modo di vestire del clero della città di Roma, l'amministrazione degli ordini sacri, la residenza, l'ufficio dei parroci e dei capitoli, ma la conduzione degli affari da parte degli uffici di curia non fu toccata. Punto 12. Giurisdizioni ed esenzioni. Alla visita pastorale come strumento di governo della diocesi erano compartecipi arcidiaconi e decani, capitoli cattedrali e ordini regolari per le chiese soggette alla loro giurisdizione. Nelle grandi diocesi del nord della Francia, ad esempio, erano stati gli arcidiaconi che tradizionalmente si assumevano l'onere della visita e il potere degli arcidiaconi e dei decani si conserva a lungo, ancora nella prima metà del XVII secolo. Il Concilio non abolisce la tradizione, stabilendo che arcidiaconi e decani potessero visitare legittimamente quelle chiese che già visitavano, ma solo con il consenso del vescovo, l'assistenza di un notaio, l'obbligo di inviare al vescovo entro un mese la relazione della visita e tutti gli altri atti. In questo caso non si accenna agli ordini regolari, ma di questi si era già trattato nella sessione ventunesima del 1562, nel contesto delle norme riguardanti monasteri, abbazie, priorati, prepositure, benefici, secolari e regolari anche esenti. Gli stessi principi avrebbero dovuto valere anche per tutti gli altri enti, ecclesiastici e laici, ma con finalità latamente religiose, vale a dire per ospedali, collegi, confraternite, laicali, mondi di pietà. Privilegi ed esenzioni di qualsiasi tipo rivendicati per osteggiare la visita venivano dichiarati aboliti. Il Tridentino, dunque, non abolisce i diritti consolidati, ma cerca di prefigurare il passaggio dalla corresponsabilità nella cura d'anime, di corpi ed enti, alla subordinazione all'ordinario, a cui doveva essere riservato, almeno in teoria, la superiore responsabilità di governo della diocesi. Nonostante i reiterati, espliciti decreti del Concilio, il diritto di visita si ferma però alle soglie, ad esempio di un ospedale, di un capitolo, e non supera gli ostacoli frapposti dagli enti gestori al controllo dell'amministrazione. E veniamo al 13° punto, rapporti Stato-Chiesa dal punto di vista delle visite. Il tema dei conflitti giurisdizionali rimanda più in generale a quello che vengono proprio per la gestione di ospedali, capiti, beni di vari enti, collegi, confraternite e così via, nonché per patronati di varia natura. Il tema dei conflitti giurisdizionali rimanda più in generale a quello dei rapporti fra Stato e Chiesa. Nelle terre cattoliche il vescovo deve tener conto di un livello di politica ecclesiastica che lo supera, di cui è solo parzialmente attore o protagonista. In particolare i concordati e la legislazione in materia ecclesiastica danno ai principi e ai sovrani cattolici uno spazio più o meno ampio di intervento nella politica ecclesiastica ed entrano in rapporto con l'ordinario diocesano a vari gradi e livelli che possono andare dalla supplenza alla corresponsabilità, dall'accordo alla concorrenza fino al conflitto aperto. Nell'ambito dell'impero il diritto di visita trova spesso regolazione nei concordati e nei trattati con i principi tedeschi, in particolare con le dinastie degli Asburgo e dei Wittelsbach. La politica ecclesiastica più compiuta sembra essere quella della Baviera, che si realizza attraverso la formazione di un consiglio degli affari ecclesiastici, formato da teologi e da laici, a cui compete fra l'altro l'organizzazione delle visite, e attraverso il concordato del 1583, che prevede che la visita generale sia condotta da una commissione con partecipazione congiunta ecclesiastica e laica. Altri trattati, come quelli con gli Asburgo, di inizio 600 non sembrano prevedere la partecipazione di visitatori espressamente incaricati dal principe, ma solo la possibilità da parte del vescovo di richiedere che l'uso del braccio secolare fosse posto al servizio della visita pastorale. In Francia, durante e dopo il Concilio di Trento, i parlamenti e lo stesso potere regio in prima persona, a partire dal concordato del 1516, si preoccupano di indire le visite pastorali obbligando i vescovi e i vicari ad adempirvi. In seguito nell'ordinanza di Blois del 1579 viene inserita la maggior parte dei decreti disciplinari del Tridentino, fra questi la norma che prevedeva l'obbligo per vescovi o vicari generali di visitare la diocesi annualmente o ogni due anni, e un altro articolo prestava ai vescovi l'appoggio del potere secolare degli ufficiali del luogo visitato al fine di garantire che le chiese fossero convenientemente tenute. In Italia le visite pastorali sono condotte generalmente dall'ordinario diocesano o dai suoi incaricati, più spesso senza che il potere secolare intervenga personalmente o imponga i propri rappresentanti. Ci possono essere però organizzazioni di apposite magistrature in alcune realtà, penso Lucca, penso Venezia, o interventi di altra natura. In genere, al di là di controversie, il braccio secolare può essere a disposizione per garantire l'esecuzione di ordini mandati, e nella legislazione, magari in quella minore, vengono inserite numerose norme di carattere religioso, morale. Penso allo Stato di Milano, dove ci sono ordini per proprio il buon vivere religioso. Gli ostacoli maggiori allo svolgimento delle visite vengono agli ordinari, dalle giurisdizioni laiche, dagli organismi esenti, e numerosi problemi sorgono anche dalla mancata coincidenza però dei confini politici con le circoscrizioni diocesane, ma il problema si potrebbe trovare in molti posti, penso alla Baviera ad esempio in primo luogo, difficoltà sottolineata spesso dai vescovi anche nelle relazioni al limine come impedimenti allo svolgimento della visita nella totalità della diocesi. E venendo a una rapida conclusione, difficile concludere un discorso così articolato, seppure sintetico e per punti, io credo che bisogna tener conto, uno, della costruzione di una sfera di competenze, due, della trasformazione di antichi organismi, con una rimotivazione e una trasformazione della figura del vescovo, con la valorizzazione della curia, con il ruolo delle procedure scritte degli archivi, la valorizzazione di organismi intermedi, l'invenzione, se vogliamo dire così, di strutture burocratiche e amministrative apposite, da una parte. Dall'altra bisogna tener conto del parallelismo confessionale, del ruolo giocato dagli stati territoriali e dai corpi, che costituiscono una specie di sassi negli ingranaggi della macchina, come alcune permanenze dell'antico, il ruolo, il potere dei capitoli, ad esempio, o il ruolo, il potere delle esenzioni. Dall'altra parte, un parallelismo anche temporale che si può rintracciare in qualche modo a livello di varie confessioni nel momento in cui si individuano i tempi delle visite, è diversa la qualità però del tipo di intervento. In ogni caso, alla fine di un processo che è però secolare, è cambiato il mondo anche grazie alla Chiesa. Vi ringraziamo. E poi 10 minuti di pausa e alle 16:30 si comincia nella sala attigua la presentazione di questo CD-ROM e quindi una specie di esame di funzionamento di questo nuovo modo di assemblare i dati che ci provengono dalle visite episcopali. E quindi sei d'accordo? Va bene così, ecco. Allora cominciamo adesso la discussione, sapendo che appunto alle 16:15 in ogni caso la terminiamo, e poi si riprende poi nella sala attigua, dove uno potrà porre tutte le domande che vorrà. Ecco, ovviamente la relazione ha appunto atteso esaminare l'aspetto istituzionale della visita, cioè non ha sviluppato per niente, come era logico, insomma, in questo tipo di struttura, gli aspetti invece di tipo appunto informatico, di raccolta di dati, eccetera, che vengono sviluppati invece appunto dalle 4:30 in poi, insomma, ecco. Quindi qui abbiamo solo il tema della visita, l'enorme tema della visita come strumento di governo. Questo non è tedesco, sì. No, io sono... Ho solo una domanda da fare. Siccome sono stati fatti riferimenti ai sinodi e anche alle relazioni Stato Limina, se come avete verificato quali sono i rapporti tra questi strumenti di governo che si vanno definendo e ridefinendo in questo periodo? Io partirei da una realtà come è quella dei sinodi. I sinodi, come noto, sono una convocazione fatta dal Vescovo per emanare una serie di norme regolative della vita della diocesi. Da un punto di vista quantitativo, io ho in mente la situazione italiana, che dice che prima del Concilio di Trento si fanno pochi sinodi, dopo il Concilio di Trento c'è un boom, una vera e propria esplosione di celebrazione di sinodi che dura ancora sino ai primi anni del Seicento, poi c'è un addormentamento dell'istituzione, della convocazione dei sinodi sino alla fine del Seicento, per una ripresa nel Settecento, soprattutto per impulso del Concilio Romano del 1725. Io non so se il modello che conosco per l'Italia può essere applicato anche per altre realtà, ma credo che non, i problemi non cambino molto. Quanto valgono i sinodi? I sinodi sono una cosa molto buffa, perché uno pensa di trovare nel sinodo della propria realtà specifica delle indicazioni. Spesso succede che i sinodi sono delle copie, uno copia da un altro, così come per i questionari di visita, uno copia abbondantemente dagli altri che hanno già fatto delle cose, in primo luogo copia dal concilio con qualche modificazione e copia anche altrove. Se guardiamo a i contenuti dei sinodi, in genere c'è una presentazione abbastanza lineare che parte dalla fede, cosa bisogna intendere per fede, corretta dottrina ortodossa, e poi via via si passa attraverso i sacramenti, si arriva alla fine sino alle confraternite, al popolo cristiano che è sempre buon ultimo. Che tipo di rapporto c'è? C'è un'altra cosa ancora, i concili provinciali, perché anche questi fanno parte della legislazione che viene alla Chiesa dal Medioevo, che viene valorizzata dal dettame del Concilio di Trento, ma che poi viene svalorizzata, deprivata di valore, di funzione, dopo il Concilio di Trento, fatta un'eccezione per il breve periodo del, diciamo, immediato post-concilio tridentino, in particolare per l'area milanese di Carlo Borromeo. Perché? Perché nel frattempo la legislazione non è che viene a imporsi, è la legislazione della Curia Romana, è la legislazione delle congregazioni, in particolar modo della congregazione del Concilio, che era stata deputata a sciogliere i dubbi e i problemi del Concilio, e le congregazioni romane, mano a mano che crescono, grazie anche a Sisto V, che poi istituisce le relazioni Stato Limina, man mano che le congregazioni crescono, accentrano sempre di più il potere di risolvere e di districare le questioni che ad esse vengono sottoposte. Quindi abbiamo questa questa dinamica. Quindi in genere il sinodo però a livello di situazione locale cosa rappresenta? Rappresenta anche, quando viene celebrato, il momento terminale, spesso, di un'attività di visita sul territorio, per poi ripartire. Se dovessi fare un esempio che conosco abbastanza, direi ad esempio per l'area milanese, noi troviamo che si effettuano tutta una serie di visite, poi si celebra il sinodo sulla base dei dati delle visite, poi ci si prepara al sinodo diocesano seguente attraverso una indagine che è già però in parte predeterminata a livello centrale della curia, ma il caso milanese è un'eccezione perché prevede un coinvolgimento di molti in questo tipo di attività e anche un'osmosi fra le varie componenti diocesane, cosa che altrove non si verifica. Il vescovo arriva, tira fuori dalla tasca, se volete, passatemi la metafora, le sue leggi, quelle le adotta e le fa approvare. C'è un problema che è legato ai sinodi e il fatto che in genere nei sinodi si dovrebbero nominare teoricamente anche i testimoni sinodali che poi verranno nominati a prescindere anche dal sinodo medesimo. Quindi il rapporto con le visite è questo. Per quanto riguarda le relazioni sallimine, in genere noi conosciamo le indicazioni che vengono dalla bolla di Sisto V. È vero che, ad esempio, però le relazioni del Sallimina erano state pensate già da Gregorio XIII. Gregorio XIII aveva approntato un questionario abbastanza ampio, se non vado errato una cinquantina di domande, che in qualche modo prefigura una specie di inchiesta sulla realtà diocesana che doveva essere portata, descritta, che doveva essere descritta a Roma. Non ho trovato traccia di un questionario simile per la elaborazione delle relaciones ad limina fatto da Sisto V. Tuttavia, chi prende in mano le relazioni ad limina si accorge che sono tutte impostate più o meno secondo un certo modello. Ed è chiaro che questo modello è un modello che non si inventa in una diocesi della Francia o in una diocesi della Germania o in una diocesi d'Italia. È un modello che in qualche modo perviene da Roma, così come c'era questo modello di Gregorio XIII, inedito tuttora, e viene poi utilizzato. Papa Benedetto XIII a sua volta formulerà un modello di relazione ad limina che invierà e che costituirà la base delle relazioni. Il modello di Benedetto XIII in qualche caso è assunto anche come ipotesi di questionario per alcuni questionari diocesani. Non so se ho risposto, qualche elemento in più l'ho dato. Se poi il professor Prodi vuole aggiungere qualcosa sopra questa concentrazione romana che grava come una cappa in qualche modo. Che è una delle cose più interessanti per il nostro discorso sul moderno. Insomma, voi dovete tenere presente un diritto canonico medievale in cui il pluralismo delle fonti era la base di tutto. Cioè, non avevamo soltanto le decretali dei pontefici, ma avevamo un sistema giuridico che andava dal sinodo diocesano, che aveva vigore ovviamente nei limiti della diocesi, ai decreti dei grandi concili provinciali del 300, del 400, eccetera, fino alla legislazione papale. E quindi noi abbiamo questa pluralità di fonti giuridiche che dava luogo a un incrociarsi molto complesso, anche molto litigioso a volte, insomma, ecco. Ma con sovrapposizioni di giurisdizioni, eccetera. Ecco. Quello che avviene in Trento è proprio, non in Trento direi, tra Trento e il post-concilio, perché qui la cosa è diversa. Trento sembra ancora sulla linea medievale, direi, no? Da questo punto di vista. Tranne il caso della visita, e e la valorizzazione del vescovo, che non è più il vescovo che va in giro, e questa è la cosa, sì, che viene... la curia, il vescovo. La curia. Cioè, noi ci troviamo di fronte a un fatto che il Concilio di Trento dice: ogni anno si deve tenere i sinodi, ogni tre anni si devono tenere i concili provinciali, no? Quindi fa questo obbligo. Cosa succede? Per dare solo un esempio, che per i concili provinciali l'obbligo si rovescia, cioè dopo 20 anni, con Sisto V, gli arcivescovi, il concilio provinciale appunto è la riunione dei vescovi della provincia intorno all'arcivescovo, non solo non è obbligatorio ogni 3 anni, ma per tenerlo devono chiedere il permesso a Roma. E quindi c'è un rovesciamento totale. In poche parole, insomma, quello che viene meno è la legislazione locale delle chiese particolari, che viene poi sostituita dal concordati e dalla legislazione statale. Cioè lo ius publicum ecclesiastico nasce proprio da questa defaillance, da questo venir meno di questa legislazione locale che era stata la base della Chiesa medievale. No, questo è un po' il tema. Ma appunto, allora, per quello che si spiega anche perché i sinodi poi dopo un po' di tempo non si fanno più, perché i poveri vescovi che facevano il sinodo annuale non hanno più leggi da fare, insomma, ecco, cioè si trovano a ripetere, a copiare tutte le stesse cose, di cui la delusione che abbiamo avuto, credo, tutti tante volte quando abbiamo le tesi sui sinodi episcopali, perché è la solita minestra che viene. Cioè non c'è più una produzione autonoma di diritto, ma c'è semplicemente il riversamento su base diocesana di norme elaborate altrove. Questo è il 99,9% dei casi. Insomma. Nella visita il tema è diverso, cioè la modernità si sente in modo più diretto proprio perché implica una nuova organizzazione della diocesi e implica una misurazione continua con la realtà e impone la formulazione appunto di nuovi strumenti di governo. Basati, come il titolo del libro della Nuvola, Conoscere per governare. Il titolo di questo libro era stato concepito proprio per cogliere questo momento della modernità nelle visite pastorali, insomma, ecco. Cioè la conoscenza diventa uno strumento di governo, no? Questo. Posso fare un'aggiunta a questo discorso? C'è una gradualità, una gerarchia delle fonti del diritto che emerge a partire dalla metà del Seicento in poi, evidentissimo, si parla di ius novum e di ius novissimum addirittura, dove si mettono da una parte le bolle papali, pontificie, e dall'altra si mettono i decreti delle congregazioni romane che diventano... anche attraverso la stampa, oggetto di un punto di riferimento assoluto un po' per tutti, e su quelli si costruisce il nuovo tipo di diritto che è tutto interno. Un'ultima postilla è sul Concilio Romano del 1725, che è Concilio Romano. Benedetto XVI fa un concilio della provincia ecclesiastica di Roma e per fare questo, naturalmente poi questo ha influsso soprattutto all'interno dello Stato Pontificio, ci saranno gli imitatori, un po' anche all'esterno, in Francia e anche altrove, ma Benedetto XVI deve fare, sostiene uno scontro durissimo con la Curia Romana. Perché? Perché tornare a celebrare un concilio provinciale all'inizio del Settecento voleva dire in qualche modo valorizzare un'idea di chiesa che non era molto apprezzata all'interno degli organismi curiali, perché voleva dire rimettere in moto tutto quello che era stato accuratamente evitato ed era stato anche in qualche modo sopito. Il caso di Borromeo, che era il modello di Benedetto XIII, era un caso che stava bene là dove era. Bello santo, modello, ma per carità. Altri interventi? Vorrei sapere in che grado quelle visite pastorali in realtà sono visite dei pastori, cioè dal punto di vista comparativo credo che le visite cattoliche si interessano forse da 80% delle istituzioni ecclesiastiche e del comportamento del clero. Il si chiamato popolo cristiano non è, è solamente interessante per le casi eccessivi di sortilegi, eretici, concubinari, ma la vita cristiana normale non interessa. Nel caso luterano in Germania è differente. La comunità e la vita della comunità cristiana che è nel centro dell'interesse. A mio avviso vuol dire che come strumento di disciplinamento del popolo la visita protestante è stata più efficace che la visita cattolica. Questa è una domanda e una tesi. Vabbè, risponderò io anche a nome di Cecilia Nuvola. Sì. Intanto lei parlerà dopo, certamente. È più efficace strumento, sono d'accordo. Più efficace strumento, anche perché il legame con gli organismi politici è molto più stretto. Il problema, però, dipende anche qui dai tempi. Perché le visite luterane sono efficaci a partire da, direi, quasi da subito, e comunque si interessano di questi argomenti relativi al popolo, direi subito. Le visite cattoliche hanno bisogno di una gestazione più lunga e di tempi più lunghi. Tuttavia non vorrei dimenticare che all'interno delle visite il problema sono tratta delle logiche e delle domande che si pongono anche alle visite. Ad esempio nelle visite pastorali cattoliche compare spesso, io mente quelle italiane in questo momento, compare spesso una domanda sulla dottrina cristiana. E tutto il problema della dottrina cristiana è qualcosa di estremamente importante per i visitatori cattolici. E naturalmente ci sono anche qui gli evasori scolastici, sono tantissimi, che la cosa dipende dalle condizioni diciamo socio-economiche di un determinato territorio, dalle modalità di lavoro. Tuttavia questo aspetto della educazione religiosa, che per Lutero è molto importante, si ritrova attenuato, tardivo anche a livello cattolico. Ad esempio penso il problema, ad esempio, le scuole della dottrina cristiana impostate da Castellino da Castello partono dal 1537. Siamo certo più tardi che Lutero, impiegheranno 20 anni, 30 anni per affermarsi come modello, avranno comunque delle difficoltà a livello italiano, e tuttavia poi nel corso del XVII secolo troviamo ben espanse in Francia e anche altrove. Quindi è un problema in qualche caso temporale per quanto riguarda alcuni particolari. Per quanto riguarda la lotta alla superstizione, bisogna intendersi, la superstizione luterana, intesa dagli luterani, è una cosa, la lotta alla superstizione però c'è anche a livello cattolico, non è solo di streghe, non è questione solo di streghe, è proprio il problema di una lotta a una cultura popolare. Delimo ha ben individuato il problema dell'acculturazione, che è legato ancora una volta alla dottrina cristiana da una parte, ma anche a una lotta per l'eliminazione di sopravvivenze di riti, ritualità, credenze di varia natura che vengono dal lontano dal tempo. Controllo un controllo disciplinante c'è per quanto riguarda la confessione, direi, e soprattutto la comunione. La comunione, al momento della comunione, i comunicanti hanno un cedolino che li garantisce della comunione eseguita e quindi della confessione fatta in qualche modo, e quindi da questo punto di vista un disciplinamento più interiore c'è. Ma questo non fa parte della visita? Non fa parte della visita, però fa parte del controllo che viene fatto durante la visita. Non comunicati, tot, è uno dei dati più frequenti, insomma, i non comunicati, e poi c'è l'analisi delle cause della non comunione a Pasqua, però lì la maggior parte dei casi poi è per inimicizia, a dire la verità, anche io credevo di trovare tante curiosità, e poi in tutte le visite, le decine di tesi che abbiamo fatto fare, insomma, in realtà non ci si comunicava perché c'erano odi familiari, ammazzamenti vari in corso, insomma, ma cioè non c'erano, no? Sì, sì, resta comunque la differenza, resta ovviamente la differenza. Io non ho insistito sulle differenze, mi interessava mettere in evidenza che alcuni fenomeni si ritrovano in qualche modo in una certa sintonia, anche se il peso è differente, però l'attenzione, poi quanto abbia influito l'intervento luterano sulla reazione cattolica, questo è tutto da misurare, però in un breve giro di anni, di decenni, ci si muove su direzioni abbastanza simili, seppure appunto pesando diversamente la qualità degli interventi. Bene, allora adesso direi, no, possiamo porre fine a questa discussione generale. Ah, c'è qualcuno? Avanti, no, non l'avevo mica visto, chiedo scusa, proprio. Abbiamo ancora 3 minuti, quindi. Io un'osservazione, prima di tutto la devo fare per ringraziare anche chi, non solo chi ha organizzato, ma quelli che sono intervenuti a fare spesso paralleli tra mondo protestante e mondo cattolico, o organizzazione cattolica e organizzazione protestante, e questo grazie anche ai nostri amici tedeschi, per cui grazie anche a Turchini di essere intervenuto proprio sotto questo aspetto. E Nuvola. No, chiedo scusa, signorina. Una piccola puntualizzazione sulla finalità, ma puntualizzazione nel senso di di una richiesta anche mia. Cioè l'Unterricht der Visitatoren era un, io se ricordo bene, era proprio un vademecum proprio del visitatore. Per cui questo vademecum, insomma, voi che andate a visitare dovete chiedervi se queste cose si stanno facendo. E anche perché, e questo non l'ho approfondito, ma credo che secondo me di non essere un po' troppo fuori luogo. Cioè Lutero si preoccupa anche che gli altri, tipo Carlo Stadio e poi anche gli anabattisti, insomma, non si infiltrassero a portare nuove idee, nuove modalità anche insomma, della nuova Chiesa che si sta formando. Quando ci si rende conto, lui lascia Wartburg proprio perché Carlo Stadio sta rompendo le uova, insomma, sta portando fuori il suo modo di vedere le cose, no? Ecco, e nel 25, in sostanza, la lotta dei contadini, cavalieri e compagnia bella. Dalla visita del 27-28 vengono fuori, mi permetto solo di dire, prima dei catechismi vengono gli articoli mi pare di Torgau e di Schwabach, che saranno proprio quelli che saranno la base della Confessio Augustana del 1530. Detto questo, voglio dire soltanto che mi pare che la preoccupazione del mondo evangelico sia proprio soprattutto quello di annunciare e di organizzare la comunità secondo certe idee. Ecco, la finalità della mi piace il riferimento a Giberti, la finalità della visita cattolica non mi pare mai che sia di annuncio. Tra quello che hai detto, no, per carità, io non sono studioso specifico di queste cose. Mi pare che, nonostante questo, a 30 anni di differenza tra il mondo protestante 1525-28 e il 1557, io ricordo, quando Salerno sta facendo la visita pastorale, ebbene, c'è un vescovo della Calabria che scrive a Seripando di trovargli, dargli un aiuto, perché il vicario di Santa Severina, da cui dipendeva questa diocesi suffragana, sta facendo visite, sta veramente opprimendo i miei parroci, perché viene per magnare. Questo è interessante. Cioè, il problema dello spillare, la visita fatta soprattutto per spillare soldi. Ecco. Allora, il problema che vorrei dire, insomma, la domanda forse è intanto veramente fino a che punto era proprio per guidare la comunità o anche per ispezionare. Secondo, se c'è stato, questo vorrei chiedere, se c'è stato, proprio su quest'ultimo punto del magnare, quindi del vicario della diocesi di San Saverino, che fa in un'altra diocesi perché vuole soldi, eccetera, eccetera, sia stata cambiata a livello legislativo. Perché mi pare sotto questo aspetto che poi il Seripando intervenga. Cioè, allora, se la modalità o le regole per visitare una diocesi, in questo caso una diocesi suffragania, sia stato cambiato dal Concilio di Trento e poi quali anche modalità si siano avute. Grazie, su alcune cose non ho nulla da dire, posso solo dire che certo il problema della predicazione è molto importante in ambito luterano, tuttavia fra diciamo la riformulazione, chiamiamo così, o una ricollocazione nel mondo del vescovo che viene fuori dal Concilio di Trento, c'è anche l'aspetto della predicazione. E Giberti in qualche modo è un'eccezione nel primo Cinquecento italiano, in quanto nelle visite in cui egli va in visita direttamente, non attraverso i vicari, si porta dietro uno che scrive le prediche e che fa le prediche, qualcuna la fa lui medesimo, e però che vuol dire che il problema della predicazione è ben avvertito, non solo, ma proprio anche, credo, sulla base delle sollecitazioni che venivano invece dalla riforma, si individua nella predicazione del clero in cura d'anime uno dei punti di novità per una professionalità nuova del clero. Prima la predicazione era in qualche modo appannaggio degli grandi ordini mendicanti. Quindi da questo punto di vista, certo, è una cosa diversa, tuttavia il problema riemerge. Per quanto riguarda i costi della visita, io credo che sia stato messo il dito sulla piaga, perché la burocratizzazione della visita, che da qualcuno è vista come un aspetto negativo, c'è qualcuno che dice ma il vescovo non va più in visita, ci sono i suoi delegati che raccolgono le informazioni, danno le informazioni, il vescovo non ha più una pastoralità. No, direi che il vescovo che va in visita costituisce, in fondo, se lo fa sempre, può essere anche un modello eroico come quello del Borromeo o di altri vescovi che affrontano disagi, montagne, cadono, hanno incidenti sul percorso, soffrono il ghiaccio delle nevi, eccetera. Però il vescovo che va in visita con un bel corteo mangia le risorse economiche delle zone dove va in visita. Nel momento in cui vescovo non va più in visita, passatemi questa battuta radicale, direi che non è vero che si rintana al caldo, c'è anche quello durante l'inverno, c'è anche quello, ma è un vescovo che si permette di governare in modo moderno una realtà territoriale, come gli antichi imperatori non potendo riscuotere troppi soldi se ne andavano in giro con tutto il loro corteo e bivaccavano presso questa corte e quell'altra corte, così facevano una volta i vescovi e per loro i decani. Qui Lutero ha perfettamente ragione, ma non era solo Lutero che se la prendeva con coloro che andavano in visita per assorbire denaro dai visitati. Il passaggio a una sede stanziale per l'imperatore segna un momento di novità, una costruzione di tipo diverso. Credo che la stessa cosa forse si possa dire anche per i vescovi una volta che accettano il principio della residenza su un determinato territorio. È l'idea della visita che può sollevare, può sollecitare delle preoccupazioni anche di controllo da parte di quelli che possono essere visitati, ed è una novità proprio quella invece di utilizzare degli strumenti per svolgere questo tipo di attività. Se mi si passa la battuta, la pastoralità serve per una ricollocazione nel mondo e una spinta ideale, ma non è poi necessario che uno vada effettivamente in visita quando ha a disposizione degli strumenti che gli permettono di conoscere, passatemi la battuta, e di governare il territorio attraverso gli organismi che offre il mondo di quel momento, e in qualche caso anticipando in alcune grandi curie, anticipando un'organizzazione più complessa che è mutuata o è parallela a quella degli stessi stati. Bene, no, sono grato anche a questi completamenti della relazione, perché il venir meno della visita come curia viaggiante, come tribunale viaggiante, implica anche proprio il superamento di queste forme che erano connesse dal punto di vista dell'oppressione finanziaria, pagamento di multe, di indennità, oltre che perché esistevano un sacco di questi balzelli legati durante il Medioevo.